ascoltami, di rimanere mio stile non serve a te né a me. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai, io piuttosto sto cercando chi eravamo noi. Almeno stavolta, almeno ascolta. Siamo stanchi, sarà il carattere, la lista dei difetti l'hai fatta tu, io mai. Ora smetti di pensare a un problema che non c'è e dammi il tempo di inchiodare tutti i tuoi perché. Almeno stavolta, almeno ascolta. Almeno stavolta, col coraggio di guardarci in faccia, ridammi l'effetto di un battito nel petto. Sono qui questa notte, dietro un sì che non rimanere mio stile non serve a te né a me.